Nessun luogo. Nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buongiorno, buona giornata, gentili ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Prima di tutto, le coordinate per intervenire, interagire con noi, gli SMS, quindi messaggi, domande, commenti condensati in 160 caratteri, digitate 349-238-6666. Se volete dilungarvi un po' di più, la mail nessunluogo@radio24.it oppure la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Allora, innanzitutto io vi porto in Francia. Le gouvernement met en place les premières reconductions de Rome sur le principe du volontariat. Mais pas question de recourir à des charters ou des vols spéciaux. Le ministre de l'Intérieur, comme celui de l'immigration, préfère des vols réguliers. En poche, 300 euros par adulte et 100 euros par enfant. Et à ce tarif, le billet d'avion est offert. Mais bien souvent, une fois l'argent versé, ils reviennent en France. Ils peuvent alors être à nouveau expulsés et toucher une deuxième fois l'aide humanitaire. I Rom a casa loro, 93 irregolari stanno in queste ore volando verso Bucarest, ma sono 51 i campi che saranno smantellati e circa 700 le persone che saranno rispedite verso Romania e Bulgaria da qui a settembre. Il governo Sarkozy mostra i muscoli, promette linea dura, ma anche incentivi economici per chi parte. Ma una fetta dell'opinione pubblica si indigna, le associazioni levano gli scudi, nel mirino la minoranza etnica più grande d'Europa. La Commissione europea richiama Parigi, Bucarest alza la voce, insomma, Rom contro tutti o tutti contro i Rom, di questo parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. E lo faremo con ospiti che sono Leonardo Martinelli, giornalista che avete sentito durante il GR e ci ha aggiornato sull'ultima ora, con il professor Fulvio Vassallo, paleologo, docente di diritto d'asilo e statuto costituzionale dello straniero all'Università di Palermo, e con Alexian Santino Spinelli, musicista che insegna lingua e cultura Rom all'Università di Trieste. Le coordinate ve le ho dette, non ho salutato invece Valeria Coffari in redazione, Fabio Cantadori alla parte tecnica. Allora, buongiorno Leonardo Martinelli da Parigi. Buongiorno. Partiamo dai fatti, Leonardo. I fatti sono che dopo che a luglio a Senegnan, nella regione della Loira, la polizia si era scontrata con alcuni Rom durante un'operazione di controllo in cui era morto un giovane, quattro giorni dopo Sarkozy aveva promesso linea dura e così è stato. Che aria tira in Francia in queste ore? Beh, ci sono molte polemiche perché ci si chiede soprattutto se questa offensiva contro i Rom sia veramente la soluzione ai problemi, diciamo, anche oggettivi di integrazione dei Rom nella società francese. Quindi diciamo che è l'ora delle espulsioni, proprio oggi sono partiti i primi voli destinati a Bucarest, ma è anche l'ora delle polemiche. Allora, per cercare di capire quanto fondamento abbiano queste polemiche, sentiamo insieme la posizione ufficiale della Commissione europea. Lo facciamo con la voce per bocca di Matthew Newman, che è il portavoce di Viviane Reding, commissaria alla giustizia e agli diritti umani della Commissione europea. Ascoltiamo insieme. Yesterday I was quite clear and I'll just repeat what I said, that it's ieri sono stato molto chiaro a riguardo e ripeto quanto ho detto. La Commissione vuole solo che la Francia, come ogni altro Stato dell'Unione, rispetti il diritto alla libera circolazione delle persone sancito nel 2004. La legislazione è molto chiara su questo. Tutti i cittadini europei hanno il diritto di muoversi liberamente all'interno dei confini dell'Unione. Questa mobilità è però soggetta a certe limitazioni, ovvero chi dovesse rimanere in un paese membro oltre 3 mesi dovrebbe provare di avere risorse economiche e non pesare sul sistema sociale e di sicurezza del paese dove risiede. Qualsiasi tipo di trasferimento operato dallo Stato deve essere giustificato dimostrando l'esistenza di un vero rischio per l'ordine pubblico. E questo deve essere provato per ogni individuo, cioè lo Stato deve guardare all'esatta situazione di ognuno, tenendo conto da quanto tempo l'individuo vive nel paese, che legami familiari ha, qual è la sua situazione sanitaria, e solo dopo questa verifica l'ordine di espulsione può essere emesso. Anche allora ci sono delle procedure precise da espletare. La persona deve essere informata dell'ordine di espulsione e ha diritto di fare appello nelle corti nazionali. Finora non abbiamo ricevuto proteste dalla Francia riguardo il modo in cui le cose sono state portate avanti, ma osserviamo la situazione francese da vicino e vogliamo ricordare al governo francese che loro devono seguire le regole come ogni altro. Allora, il quadro normativo che sta consentendo alla Francia queste operazioni, professor Vassallo Paleologo, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Buongiorno. Innanzitutto il quadro normativo è la direttiva comunitaria che veniva richiamata poco fa nei suoi contenuti. Solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza si possono espellere cittadini comunitari. Tra l'altro in questo caso voglio ricordare l'opinione pubblica deve essere informata, sono rimpatri volontari. In realtà si sono create le condizioni per persone sono state costrette a scegliere questa forma di rimpatrio, appena 79 su una platea di 700 candidati all'espulsione in Romania. Sì. Ora è da verificare se la Francia passerà a effettuare espulsioni forzate, che dovranno comunque essere fatte nel rispetto di quei principi che richiamava poc'anzi il rappresentante della Commissione europea. Voglio anche ricordare che proprio per quanto riguarda la Francia abbiamo già una posizione precisa del Comitato per i diritti sociali dell'Unione europea che ha denunciato rispetto alle operazioni che la Francia in parte ha compiuto, ma si accinge a compiere, la violazione della Carta sociale europea che prevede diritti precisi per i Rom, come diritti precisi vengono garantiti che garantito anche dall'articolo 29 della direttiva comunitaria 38 del 2004. Quindi abbiamo un quadro normativo e anche denunce di organi internazionali, abbiamo anche la denuncia del Comitato per l'eliminazione delle differenze razziali delle Nazioni Unite, che denuncia che in diversi paesi europei, non è solo il caso della Francia, sì, vengono violati i diritti minimi dei Rom. E quindi rispetto a tutto questo non è solo una questione di fonti normative, ma anche di pratiche amministrative che molto spesso eludono l'applicazione dei principi di legge. Allora, professore, lei ha citato altri paesi europei, cito su tutti la Danimarca, che ha espulso circa 400 Rom, in Belgio 700 e poi recentemente la Germania che ne espulsi alcune decine verso il Kosovo. Allora andiamo con ordine. Lei ha detto non sono espulsioni forzate, sono come dire accompagnamenti volontari, tanto più che c'è un incentivo. Leonardo Martinelli, questo incentivo 300 euro se ho ben capito a testa più 100 euro per ogni minore, è una molla sufficiente per far sì che insomma i Rom si spostino e tornino nei loro paesi di origine? Beh, a parte che il 300 euro è una base, poi in realtà in molti casi questo contributo è più elevato. Viene anche pagato ovviamente il volo per Bucarest e effettivamente quello che viene riscontrato in questi giorni in Francia è che molti accettano questo contributo e tanti, le ONG che seguono i Rom sia in Francia che in Romania, ma anche tanti esponenti del mondo politico francese, perfino del partito di Sarkozy, dicono che comunque questi stessi Rom, una grossa parte di loro, poi rientreranno in Francia, come già è successo in occasioni simili l'anno scorso. L'anno scorso sono stati 10.000 le persone, i Rom, che hanno ricevuto questo contributo e sì, apparentemente i due terzi di loro sono rientrati in Francia, anche perché non ci sono più controlli alle frontiere, quindi possono essere espulsi sulla base di tutta una serie di eccezioni al trattato di adesione all'Unione Europea, l'adesione è avvenuta, ricordo, nel 2007, ma poi possono rientrare perché non ci sono più controlli alle frontiere, quindi questi contributi sono in parte un incentivo proprio perché in molti se ne stanno andando. Chi non vuole andarsi non si fa trovare nel campo, anche molto perché, semplicemente. Molto semplicemente perché voglio dire, con tutti gli annunci che sono stati fatti, soprattutto da Sarkozy, che molti dicono anche per aumentare i suoi consensi nel momento in cui nei sondaggi è sì, bassissimo. Ma poi ci arriviamo, Leonardo, poi certo, apriamo il capitolo, però, come dire. Nel momento in cui si dice ai 420 che si vanno a sgomberare i campi nomadi, chi non vuol far trovarsi non si fa trovare, quindi prende la roulotte, comincia a girare, in tanti stanno arrivando in Italia, soprattutto in Piemonte. Ecco, si hanno notizie, quantomeno scampoli di notizie, proprio da Torino. Prima di tornare al professor Vassallo Paleologo, vi segnalo che agenzia battuta in questo istante, un aereo con a bordo una sessantina di rom in situazione irregolare, destinati quindi al rimpatrio, è decollato all'aeroporto di Lione, nel centro della Francia. In realtà il governo francese aveva tenuto poi nascosto l'aeroporto di partenza fino all'ultimo per evitare, come giustamente riportavi tu nel GR, come dire, un assembramento mediatico e quindi, no, come dire, troppi la riflettori. La polemica è molto forte, come ti dicevo. Allora, professor Vassallo Paleologo, c'è un punto, mi pare, cruciale dal punto di vista normativo, che è questo, cioè il respingimento o il rimpatrio forzato collettivo. Quindi un'identificazione su base etnica, cioè che cosa succede? Che io dico che i Rom vanno riportati a casa loro, questo è... Innanzitutto dobbiamo distinguere assolutamente i Rom comunitari come i rumeni dai Rom extracomunitari come quelli che provengono dall'ex Jugoslavia, sì. Perché alle due categorie si applicano norme totalmente diverse. Ci aiuti a capire. Per quanto riguarda... Cioè, per i rom comunitari vale il principio della libera circolazione e le garanzie nei casi di respingimento e espulsione che sono previste. Per esempio, per dirne una, chi ha 5 anni di soggiorno legale in Europa è ben difficile che in qualunque paese comunitario è ben difficile che venga espulso verso la Romania dalla Francia, per esempio. Cioè, ci sono molte garanzie per i rom comunitari, tant'è che la Francia sta cominciando con dei rimpatri volontari, non sta mettendo in esecuzione rimpatri forzati. E anche nel 2008, quando l'Italia cercò con il pacchetto sicurezza del 2008 di introdurre norme più forti, più energiche per importare Rom in Romania, intervenne la Commissione europea e quel pezzo di pacchetto sicurezza non diventò mai legge. Quindi sui Rom comunitari è un discorso, altro discorso è per i Rom extracomunitari, perché per loro, in quanto extracomunitari, valgono regole di respingimento, riammissione e comunque espulsione in generale molto più energiche, molto più rapide e molto più efficaci, sempre che poi vengano messe effettivamente in esecuzione dalle forze dell'ordine e dalle autorità di polizia e dai questori. Ecco, qui si parla però di Rom di origine rumena. Oggi si parla di Rom rumeni, sì, questo è il tema oggi del dibattito. Per quanto riguarda i Rom rumeni abbiamo delle denunce precise da parte del commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Hammarberg, e c'è un dossier di Amnesty International recentissimo che dice che nei diversi paesi europei vengono effettuati pratiche di evizione forzata, cioè vengono svuotati i campi con la distruzione di tutti i beni che i Rom hanno dentro questi campi. E poi non si trovano soluzioni alternative, come sarebbe richiesto in base alle normative comunitarie. Cioè, nel caso di uno sgombero di un campo Rom, quando c'è un movimento, di un gruppo di persone, sì, non si può movimentare un gruppo di persone con donne e bambini se non si trovano soluzioni alternative. La logica della dispersione è la logica che produce soltanto clandestinità e accentua i problemi. Basti pensare alla crescita esponenziale dell'abbandono scolastico. Percorsi di integrazione, quando i Rom vengono dispersi sul territorio, si interrompono bruscamente e le prime vittime sono i bambini che non possono più frequentare la scuola, che poi è uno strumento fondamentale di integrazione sia per loro che per le loro famiglie. Ecco, ha toccato il punto fondamentale, che è quello dell'integrazione, perché è inutile nascondersi dietro un dito. Ma siccome ha citato la Commissione europea, allora vi facciamo sentire ancora le parole di Matthew Newman, a cui abbiamo chiesto quale sarà il prossimo passo della Commissione europea. The next step is just to insist continueremo ad assicurarci che le regole siano rispettate. L'Unione Europea sta lavorando per l'integrazione dei Rom all'interno dei Paesi membri. Voglio ricordare che esistono dei fondi disponibili per aiutare gli Stati nel processo di integrazione. Ci sono 17,5 miliardi di euro a disposizione dal 2007 al 2013. E sta ai singoli Stati membri elaborare un programma specifico per l'integrazione dei Rom nella società all'interno dell'area comunitaria. Mi riferisco a programmi sanitari che assicurino condizioni di vita adeguate. La competenza dell'Unione Europea per le politiche in questo campo è molto limitata. È dovere dei singoli Stati fare fronte a questo problema con i fondi europei. Il compito dell'Unione è incoraggiare gli Stati membri a supportare politiche di integrazione e vigilare affinché le regole che l'Unione si è data vengano rispettate. Allora, parola d'ordine, integrazione e fondi. I fondi europei sono tantissimi. Dal 2007 al 2013 sono stati stanziati tra i 13 e i 17 miliardi di euro per i Rom e le altre minoranze etniche. Però poi sta a ciascuno Stato, come dire, investire questi soldi per farsi carico di un progetto sociale anche di integrazione della comunità Rom. Ma da questo punto di vista mi pare che gli Stati europei ci sentono veramente poco. Nessun luogo è lontano. Allora, 349-238-6666 per le vostre sollecitazioni, le vostre domande. Una su tutte. Ma quali Rom? Sono zingari, ladri, vadano via. A questo ascoltatore risponde un altro ascoltatore, che sottolinea un altro problema, che dice: il posto dove li rimandano, la Romania, li discrimina e li ghettizza molto più degli altri. Allora, la domanda che mi faccio io e che rivolgo ai miei ospiti è: come fa a continuare questo palleggio tra gli stati? Nessuno li vuole, qui mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato, pare che nessuno voglia prendersi la responsabilità di attuare le parole che poi diceva anche Matthew Newman della Commissione Europea, cioè il punto è espellere o integrare, anche perché Leonardo Martinelli da Parigi, ribongiorno a te Leonardo, ci ricordavi prima che il rischio qual è? Che noi gli si dia, cioè i francesi, diano 300, 500, 1000 euro eccetera, questi ritornano a Bucarest e poi rifanno una carovana e tornano in Francia. Come sta pensando di ovviare Sarkozy a questa cosa? Ma innanzitutto con una banca dati che è in preparazione da vari mesi, si chiama Oscar e che dovrebbe essere operativa già dal 1 settembre, con un'identificazione dei Rom mediante impronte digitali. Finora si chiedevano solo il nome e il cognome, spesso loro non presentavano un documento, quindi con le impronte digitali loro sperano di classificarle, quindi in questo modo non dare più di una volta i contributi per il rimpatrio, che come invece è effettivamente avvenuto. Certo, per evitare insomma questo circolo vizioso in cui sostanzialmente questa popolazione viene pagata per andarsene per poi ritornare, insomma diventa una specie di strano teatrino, no? In cui viene pagato questo circo. Io ricordo che in tutto ciò Sarkozy ha chiaramente fatto alzare gli scudi non solo alle associazioni ma anche a molti osservatori internazionali. Il fatto della schedatura ad esempio, ma non solo, il fatto di queste retate nei campi Rom ha fatto gridare l'inglese Time, il settimanale, e ha paragonato gli sgomberi appunto dei campi Rom ai rastrellamenti della Gestapo addirittura. Il governo Sarkozy, come dire, è alcuni mesi, sono alcuni anni che ha dato una svolta decisamente xenofoba alla sua politica. Io ricordo da ultimo, ce ne siamo occupati anche noi, lo sgombero della giungla di Calais. Questo, Leonardo, perché c'è un problema politico? Qual è la lettura che tu dai da lì, da Parigi? Sarkozy è ai minimi storici nei sondaggi, in certi casi è sceso anche sotto il 20%. In Francia è una sorta di tradizione, i politici di destra, per recuperare consensi presso il francese medio, giocano sempre la carta della sicurezza e tutto sommato dal loro punto di vista si può dire anche che facciano bene. Se si dà un'occhiata agli ultimi sondaggi usciti proprio nei giorni scorsi relativi a questa vicenda dei Rom, il 79% dei francesi appoggia Sarkozy in questa operazione e sono il 60% tra coloro che votano a sinistra, quindi è visto dagli osservatori come un modo per il presidente di recuperare appunto consensi. È una soluzione al problema? Ecco, su questo invece ci sono molte, molte perplessità. Professor Vassallo Paleologo, abbiamo sentito prima le dichiarazioni ufficiali della Commissione Europea che, come dire, probabilmente vanno anche lette tra le righe, nel senso che quando dicono le competenze dell'Unione Europea in queste politiche è molto limitata, è dovere dei singoli stati fare fronte al problema, che cosa vuol dire? Cioè, leggiamo meglio la Commissione Europea, che cosa può fare, che cosa farà realmente per il problema Rom? Allora, la competenza della Commissione, dell'Unione, è limitata sulle politiche sociali, perché sono i singoli paesi che stabiliscono politiche sociali di integrazione sulla base di canali finanziari che provengano da Bruxelles. Ma la competenza dell'Unione Europea, del Parlamento, della Corte di Giustizia, se ci sono violazioni della Carta dei diritti fondamentali, come io ravviso in questo caso, rispetto all'articolo 21, divieto di discriminazione, o articolo 24, di provvedimenti amministrativi non posso andare contro i superiori interessi dei minori. Bene, in questi casi l'Unione Europea ha competenze dirette e può sanzionare violazioni da parte degli Stati. Quindi c'è un po' un doppio binario, dalla parte dell'integrazione e l'Unione Europea deve appoggiarsi sull'intervento che può sostenere, promuovere, finanziare, ma poi sono gli Stati che intervengono. Ma dal punto di vista del rispetto dei diritti, se uno Stato, come per esempio nel caso dell'Italia nel 2000, il caso di Sulejmanovic, l'Italia venne deferita alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un organo del Consiglio d'Europa, e fu condannata per le espulsioni collettive effettuate nel 2000 da Decenza, Rom. Quindi esistono grosse competenze sul controllo dei diritti fondamentali, modelli. Ecco, la linea è abbastanza disturbata. Professore, vediamo se riusciamo a migliorarla. Insomma, il fatto dei respingimenti, dei rimpatri collettivi, quello è un nodo cruciale, perché poi si collega al fatto delle identificazioni su base etnica. Allora, cerchiamo di fare un po' più di chiarezza anche su una serie di luoghi comuni che, ahimè, avvolgono il popolo rom. E allora do il mio benvenuto a Alexia Santino Spinelli. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori in ascolto. Allora, Alexia, oltre a essere musicista, insegna lingua e cultura rom all'Università di Trieste. Devo chiamarti professore? No, di Chieti. Di Chieti, io... chiedo scusa. ho insegnato 7 anni a Trieste, da 3 sono a Chieti, per la correttezza, no? Per informazione. Ti avevo spostato a nord. Allora, questione rom. Innanzitutto, esiste una questione rom, perché il popolo rom è discriminato da secoli. Non voglio però aprire il capitolo storico, perché sennò non ne usciamo veramente. Partiamo da un primo luogo comune che tentiamo di abbattere con te. I rom sono nomadi, certo. Punto. Certo. Giusto? Certo, assolutamente. La storia ci dice che la mobilità dei rom è sempre stata coatta, sempre ci sono state ragioni sempre traumatiche che hanno costretto i rom in qualche modo ad andare via da un luogo. Non è stata mai una scelta. I berberi e i tuareg del deserto sono nomadi ed è una forma culturale nobilissima quella del nomadismo, ma non si applica a noi rom, in quanto noi eravamo alla ricerca di uno spazio vitale dove inserirsi in Europa. Purtroppo invece la storia ci ha detto altro. Allora, i rom non sono nomadi per scelta, ma sono nomadi perché? Perché vengono discriminati, perché sono costretti. L'abbiamo detto, voglio dire, la stessa stampa bulgara e rumena chiarisce molto bene questa cosa. C'è discriminazione anche nei paesi di origine. Detto ciò, Alexian, facciamo un'altra distinzione, perché noi abbiamo parlato di campi, cioè i famosi campi rom, quelli poi, no, che finiscono spesso e volentieri sotto i riflettori dei media. Che cosa ci puoi dire su questa cosa? Indegno di un paese civile, che devono essere superate, smantellate, e bisogna invece procedere a delle serie politiche di integrazione. I rom hanno bisogno di avere come dire, un contatto con gli altri, di essere inseriti nel contesto sociale maggioritario e poter accedere ai servizi pubblici come tutti quanti gli altri. Non possono e non devono diventare cittadini di serie Z, zingari. Leonardo Martinelli, ancora da Parigi. Leonardo, alcuni dei rom dei 51 campi che Sarkozy vuole poi smantellare, ci sono bambini e ci sono bambini francesi, cioè ci sono bambini che parlano francese. Nel momento in cui noi li rimandiamo a Bucarest o li rimandiamo a Sofia, loro vanno in un paese di cui non dico che non conoscono la lingua, perché magari insomma l'hanno imparata dai genitori, però li stiamo portando all'estero, li stiamo portando in un paese che loro non conoscono. Questa è una contraddizione. Sì, e questo è uno dei nodi, diciamo, anche delle polemiche degli ultimi giorni, proprio perché, come dicevi, molti di questi bambini sono in realtà scolarizzati, quindi vanno a scuola, sono nati qui in Francia perché i loro genitori sono arrivati qui negli ultimi anni. È un problema che è stato posto anche proprio stamani, e il Nadine Morano, che è il sottosegretario alla famiglia del governo francese, ha risposto in maniera abbastanza secca, dicendo che comunque le scuole non esistono solo in Francia, che questi bambini possono andare a scuola anche nei loro paesi di origine, ma sarà effettivamente un problema per loro reintegrarsi là. Ovviamente non è che queste famiglie fossero spesso ben integrate in Francia, questo va anche detto, cioè ci sono effettivamente, quando uno poi guarda questi campi che sono sgomberati proprio in questi giorni, si tratta spesso di luoghi senza acqua, senza elettricità, igienicamente veramente terribili, quindi il problema dell'integrazione, al di là anche della scolarizzazione dei bambini, il problema dell'integrazione dei Rom in Francia come altrove esiste. Il discorso è se con gli sgomberi forzati delle ultime settimane si troverà una soluzione a questo problema. Allora, gli ascoltatori 349-238-6666, un ascoltatore ci chiede perché non vanno in Germania. Molto semplice, perché vengono espulsi anche dalla Germania. Citavo prima il caso di alcune decine di Rom che sono stati espulsi verso il Kosovo. Un altro ascoltatore dice: perché continua questo rimpallo tra la Romania e l'Europa? La risposta dell'ascoltatore è perché questi rubano e basta. Allora, vediamo anche di smontare un attimo questa cosa: il popolo Rom è un popolo di ladri. Alexian. Assolutamente no, certamente ci sono diciamo delle situazioni di emarginazione, di degrado che porta ad attività illegali, ma non si può assolutamente condannare un popolo intero. La responsabilità di un crimine è sempre di un singolo, di una sola persona, e che va punita sicuramente, ma non si può condannare o dare un'etichetta etnica ad una, diciamo, un fatto di cronaca. E questo è il facile gioco di chi vuol, come dire, condannare facilmente un'intera popolazione, quindi anche per pulirsi la coscienza in qualche modo. Sono loro che si comportano male, nulla di più falso. Nel momento in cui ai Rom vengono negati diritti elementari, quello di avere una casa, un lavoro, un'assistenza sanitaria e di mandare i bambini a scuola, chiaramente sono totalmente e completamente svantaggiati rispetto agli altri. Alexia, è chiaro che è più facile poi cadere, diciamo, certo, nell'errore, certo, ma non si può condannare. E poi vorrei ricordare anche a questo signore che il 90% di Rom vivono in condizioni più che dignitose, vivono nelle case molto spesso e vivono integrati. Purtroppo poi c'è una Francia, quella minoritaria, che ha più visibilità mediatica, che fa da eco, e purtroppo tutti poi pensano che i Rom facciano determinate cose. Allora, a parte che, come dire, il tema immigrazione è una delle più formidabili e potente leve politiche che esistano. Non tutti i Rom rubano, non tutti i Rom sono nomadi. Queste semplificazioni, insomma, io proprio francamente non le capisco. A Perpignan, cittadina ridente, cittadina francese del sud della Francia, c'è una grossissima comunità Rom che abita nelle case, quindi non sono nelle roulotte, non sono nei campi, eccetera. Allora, se la parola d'ordine è integrazione, un'agenzia battuta adesso, il presidente romeno Traian Băsescu, ha detto che quello che succede a Parigi dimostra la necessità di adottare un programma europeo di integrazione dei Rom, una proposta già avanzata da Bucarest nel 2008. Nessun luogo è lontano. Zefferino Prada, Zefferino Prada, o calo di Spagna, o calo di Spagna, vada valo murcia, vada valo murcia. Allora, 349-238-6666, oggi stiamo parlando del rimpatri che la Francia sta effettuando dei Rom, stiamo anche cercando di capire meglio qual è il problema. Qui non essere alfieri del buonismo, io non difendo a spasa tratta i Rom come non accuso i Rom. Io vorrei, la realtà non è bianca o nera, non è manichea, non è che tutti i Rom sono colpevoli o tutti i Rom sono innocenti. Sicuramente ci sono dei problemi di degrado, perché in alcuni campi, ma lo vediamo anche in Italia, le condizioni sono tremende, le condizioni igieniche, l'accesso ai servizi pubblici non è possibile, i bambini non possono andare a scuola. Sicuramente ci sono dei casi in cui vengono spediti i bambini a fare l'elemosina, alcuni Rom rubano, eccetera. Quello che non sopporto è la generalizzazione. L'altra cosa, la riflessione che stiamo facendo è: il problema Rom esiste? Sì. Allora, chi se ne deve far carico? Telegraficamente, professor Vassallo, paleologo, la legge che c'è, che è in vigore in questo momento, ci permetterà di risolvere la questione Rom? Non diciamo problema, diciamo questione, via. Ma io penso per esempio che il reato di immigrazione clandestina sta peggiorando tragicamente la condizione dei Rom che non sono cittadini comunitari, e rilevo anche a Palermo, dove c'è un campo Rom, che dall'entrata in vigore a tolleranza zero, la devianza e anche la caduta della criminalità sono aumentate piuttosto che diminuite. Molti rom si sono clandestinizzati, alcuni sono andati anche in Francia e in Germania, dove peraltro hanno ottenuto in qualche caso il diritto alla residenza. Quindi i provvedimenti puramente repressivi disperdono il problema, lo rendono irrisolvibile. Politiche di integrazione sarebbero possibili, ma occorrerebbe anche un diverso atteggiamento degli enti locali. Invece purtroppo molti sindaci si muovono nei confronti dei rom con una totale assenza di capacità di differenziazione tra le diverse situazioni. E voglio anche ricordare che tra i basamenti dello Stato di diritto esiste il principio di responsabilità personale della pena. Non si può criminalizzare una collettività, perché da qui si comincia e si arriva al lager. L'abbiamo detto, l'ho ripetuto fino alla nausea anche quest'oggi. Grazie a professor Vassallo, paleologo, per essere stato con noi. Telegraficamente andiamo anche a Parigi. Leonardo Martinelli, Sarkozy andrà avanti? Che sensazioni hai, cosa respiri da lì? Ma credo che andrà davvero avanti. Sono finora 50 i campi che sono già stati smantellati, lui ne vuole smantellare altri 250 entro la fine di ottobre, e il problema è che essendo confortato anche dai sondaggi, come dicevo prima, io credo che andrà avanti. Poi dovremo appunto riparlarne fra qualche mese e chissà, andare a vedere se molti di questi rom saranno già rientrati in Francia. Grazie allora Leonardo Martinelli per la tua precisione e puntualità. Un buon lavoro lì da Parigi. Alexian, telegrafico, mi rendo conto che non è facile. Che cosa manca al popolo rom? Ma di farsi conoscere per quello che sono, un enorme patrimonio artistico, culturale, linguistico, letterario, è totalmente, completamente ignorato, a favore invece della cronaca. E quindi ecco, per favorire l'integrazione occorre anche conoscere i rom per quello che sono, portatori di una cultura sicuramente diversa, una cultura però che può arricchire l'Europa, così come lo ha già arricchito. Se pensate con la musica, nel periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazione, folklore locale, radici culturali, grandi compositori hanno attinto a piene mani dalla nostra tradizione musicale. Noi abbiamo dato tanto all'Europa e molti fanno camping senza sapere di imitare uno stile di vita rom. Quindi ecco, conoscere i rom da un punto di vista linguistico, culturale e artistico, io credo che possa favorire il rispetto per la nostra etnia. Grazie Alexian Santino Spinelli, che ci ha anche regalato la colonna sonora di questa puntata. Una buona giornata a te, un buon lavoro. Grazie e un saluto caloroso e fraterno nella lingua romani. Gut Bacht. Tafastipe. Adesso vi porto in Russia perché a 3 settimane dall'inizio dei terribili roghi che hanno messo in ginocchio un paese intero, la situazione è decisamente migliorata, e allora il tempo della riflessione ci aiuta in questo. Antonella Scott da Mosca. Beh, dopo più di un mese di caldo che la Russia non aveva mai visto nella sua storia, ormai è questo il tempo per fare purtroppo i bilanci dei danni, delle vittime che durante il periodo dell'emergenza potevano essere soltanto provvisori. Per darvi un aggiornamento sulla situazione ora, oggi è proprio il primo giorno in cui a Mosca e nella regione di Mosca comincia davvero ad abbassarsi la temperatura. Il problema è che ancora non si vedono quelle grosse precipitazioni che sono l'unica soluzione per spegnere definitivamente gli incendi. Ce n'è ancora in corso, anche se, come ricorda ogni giorno il Ministero delle Emergenze, ci sono dei grossi progressi. Per esempio oggi dicono che la superficie in fiamme si è stata ridotta ieri, soltanto ieri, di 30 volte, quindi attualmente dovrebbero essere in tutta la Russia 11.000 ettari ancora coinvolti rispetto ai 700.000 dei giorni peggiori, e sono circa 313 ancora gli incendi che però dovrebbero essere piano piano localizzati e piano piano ridotti. C'è da dire che appunto ci vorrà ancora tanto tempo, perché le torbiere sono le più lente a spegnersi e a volte raccontano che addirittura non basta neanche la neve. In ogni caso, insomma, è un forte calo della temperatura quello che ci vuole, e le piogge che però devono essere intense, e ancora di questo non c'è traccia. un bilancio su cui ancora non c'è un quadro preciso, però è quello dei i danni sul raccolto. Anche su questo il fatto che non piova sta mettendo a rischio quella che qua viene chiamata la semina del grano d'inverno, che dovrebbe partire alla fine del mese, però il terreno è troppo secco per poter ricevere i semi. I contadini, oltretutto, con le perdite che hanno avuto, non avranno neanche sementi a sufficienza, e quindi su questo si stanno concentrando le preoccupazioni, perché il calo del raccolto apre la possibilità, questo viene scritto oggi sui giornali russi, addirittura si starebbe valutando la possibilità di importare grano dall'estero, forse dall'Ucraina, dal Kazakhstan. Quindi dopo 11 anni la Russia si troverebbe a tornare come paese importatore, quando invece la sua ambizione era di diventare uno dei pilastri dell'esportazione di grano a livello globale. Ecco, in tutto ciò i media russi hanno raccontato questi eventi in maniera, come dire, differente, perché la TV di Stato celebrava la macchina d'intervento e un muscolare Putin al comando di un aereo antincendio che spegneva incendi a destra e a manca, mentre c'è un problema ancora più scottante, che è quello che riguarda l'area contaminata dal disastro di Chernobyl. Ascoltiamo. Gli esperti, anche le stesse organizzazioni ambientaliste come il ramo russo di Greenpeace, sono comunque molto prudenti su quello che potrebbe essere il rischio reale, perché un incendio nelle zone contaminate si traduce in rischio per l'uomo a seconda di tante variabili, del tasso di radioattività, che è molto diverso a seconda della, proprio anche nella zona, diciamo la zona proibita attorno a Chernobyl, il livello di radioattività può cambiare se uno cammina in un sentiero oppure ci si avvicina a un albero, e quindi è molto difficile, in base anche poi ai venti, al livello di radioattività che viene, diciamo che il rischio è che dalla vegetazione venga lanciata nell'aria queste sostanze. Su questo anche gli esperti, ho letto anche di molti esperti che sono stati interrogati anche al di fuori della Russia, come Londra, erano molto prudenti sulle possibili conseguenze, anche perché appunto non era possibile avere una fotografia esatta di quello che è successo nelle province, certo, nelle province più vicine. Allora, altri sms al 349-238-6666, perché il tema è caldo, è scottante, non è di facile soluzione. Un ascoltatore segnala il fatto che a Venezia il sindaco ha costruito un villaggio per i Rom coi fondi comunitari ed è stato molto contestato. Marina da Milano: dato che il popolo Rom storicamente non è nomade, perché non si è mai pensato di costituire in territorio europeo un vero e proprio stato, di ritagliare per loro una zona geografica? Insomma, questa diventa poi fantapolitica, diventerebbe una cosa incredibile. Allora, il punto non è, il punto della trasmissione è il rimpallo politico. Esiste il problema dei Rom, io non sto negando che nei campi Rom ci sia il degrado, ci sia delinquenza, il degrado porta delinquenza, il problema è chi si fa carico di tutto ciò. La risposta è: l'Europa dovrebbe farlo, scusate, e destina fondi per far questo ai singoli stati europei. I singoli stati europei che cosa stanno facendo? Stanno giocando a ping pong con i 700, i 400, i 500 Rom. Ma adesso diamo un'occhiata alle notizie dall'altro lato del mondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. Andiamo in Cina, perché almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite oggi a Daxu, nella tormentata regione cinese dello Xinjiang, a causa dell'esplosione di un veicolo, lo afferma l'agenzia Nuova Cina, senza fornire però altri dettagli. Lo Xinjiang è la patria della minoranza etnica degli Uiguri ed è stato teatro l'anno scorso di violenti scontri, e come spesso accade, Pechino, come dire, tende a non chiarire troppo quello che accade in quella zona. Sempre più tesa la situazione in Sudafrica, è il secondo giorno di sciopero generale del settore pubblico. Ebbene, sono state assaltate numerose scuole da parte dei manifestanti che chiedono un aumento dei salari. La polizia sta rispondendo con cariche e con proiettili di plastica. Un gruppo sconosciuto ha proclamato l'indipendenza dei serbi. L'associazione delle municipalità della provincia autonoma del Kosovo, un'organizzazione finora sconosciuta, ha approvato una dichiarazione di indipendenza della popolazione serba. Questo a poche settimane dall'autoriconoscimento del Kosovo stesso. California, ne avevamo parlato, un primo contingente di 224 uomini della Guardia Nazionale americano è stato dispiegato al confine tra la California e il Messico a sostegno della Guardia di Frontiera. Questo perché? Per lottare contro il traffico di droga e l'immigrazione irregolare. Lo ha annunciato il governatore dello Stato americano Arnold Schwarzenegger, citato dal sito online della BBC, e ha spiegato che gli uomini impiegati oggi fanno parte dei 1000 autorizzati dal presidente americano Barack Obama. Chiusi per un guasto due reattori a 200 km da Mosca, due reattori della centrale nucleare Kalinin, nella regione di Tver, a circa 200 km a nord-ovest della capitale russa, sono stati chiusi oggi per un malfunzionamento. Stando al comunicato ufficiale dell'impianto stesso, il secondo reattore è stato disattivato dal sistema di protezione automatica per un guasto a una pompa, mentre il primo reattore è stato chiuso per un problema al generatore stesso. Era l'ultima notizia, il nostro WhatsApp un po' a caccia delle notizie mentre il nostro mappamondo gira. Io ringrazio Valeria Coffaro, che anche oggi è stata fattiva e collaboratrice in redazione a confezionare questo programma. Ringrazio anche il tocco di Fabio Cantadori alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani ore 13:15. Vi lascio al GR, ma ricordate, nessun luogo è lontano.